la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 21 di marzo, teoria inizia la primavera, e speriamo che le cose possano andare un po' meglio in questo paese. Sapete che in questi giorni, ieri e oggi, il Presidente del Consiglio è stato a Bruxelles, e l'esito di questa visita, c'era un Renzi un po' rabbugliato quasi per come l'ha presa la stampa italiana, però resta il fatto che qui ci sono ancora molti punti da chiarire sulla sua manovra economica e anche sul rispetto dei vincoli europei. Oggi una notizia che ha fatto balzare molti colleghi e molti di coloro che poi twittano, scrivono ai giornali eccetera eccetera, è stata la risposta che l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha dato alla conferma che si interverrà anche per diminuire le retribuzioni dei manager pubblici. Moretti, l'ingegner Moretti che guida Ferrovie dello Stato, sta sugli 808.000 euro, ha detto però se me le abbassate io vado via, e il Presidente del Consiglio ha risposto: sono convinto che spiegherò a Moretti e lo convincerò, ma di questo sentirete più tardi parlare nella trasmissione di Cruciani. Noi invece oggi, se volete chiamare l'800 24 00 24, partiamo per le vostre telefonate ancora chiedendovi un'opinione su questo referendum consultivo che si avvia a chiusura entro le 17 nel Veneto, cominciato all'inizio della settimana, in cui liberamente al sito www.plebiscito.eu si può dare una risposta, se si avete i titoli per votare in Veneto, a queste quattro domande sull'indipendentismo veneto. E vi chiedo ancora un'opinione su questo, perché guardate che saranno più di 2 milioni alla fine coloro che liberamente hanno partecipato a questa consultazione. Nel tardo pomeriggio in piazza Treviso ci sarà la proclamazione del risultato. Io credo che comunque sia una cosa, riguardando più del 50% di coloro che hanno diritto di votare nel Veneto, sia un fenomeno di fronte al quale i giornali e le informazioni doveva stare più attenti a dare più informazioni. Invece ho visto soprattutto disprezzo e poca informazione, un fenomeno dal basso che testimonia un grande malessere del quale occuparsi. Io non sono per un'interpretazione folclorica, cioè è chiaro che non ci sarà nessuna secessione, nessuna indipendenza, ma è un desiderio che va al di là dei partiti, perché questo è trasversale. Io mi auguro che gli organizzatori non diventino un partitino, però è qualcosa su cui riflettere molto approfonditamente. Chi dice, secondo me non sbaglia, che anche in altre regioni si facesse in questo sistema avrebbe probabilmente lo stesso numero di partecipanti o percentuali elevate e forse anche di risposte, come sarà inevitabilmente in Veneto maggioritariamente per l'indipendenza, secondo me tocca un punto. E qual è questo punto? Quello che noi non abbiamo affatto risolto in questi 20 anni: l'equilibrio tra centro e periferia, tra Stato e autonomie. L'indipendenza finanziaria promessa dalle autonomie, comuni e regioni non c'è. Lo Stato continua a fare pasticci cambiando le norme finanziarie ogni mese su questo. Il risultato è che noi abbiamo pagato di più allo Stato e attraverso i comuni ancora allo Stato, e non abbiamo capito nulla di questa specie di federalismo che per 20 anni ci è stato spacciato. Però, mentre voi telefonate su questo, noi facciamo una riflessione con il nostro ospite di oggi su un tema che è totalmente connesso a questo. Voi sapete che negli impegni del governo c'è la riforma del titolo quinto della Costituzione, cioè quello in cui appunto si disegnano gli equilibri, le competenze tra Stato centrale, autonomie, regioni, comune, e che è un pasticcio per come è stato riformato anni fa dal centro-sinistra con pochi voti, e c'è il grande impegno a riformare il Senato. Matteo Renzi nella sua slide l'ha presentato in una maniera secondo me un po' sbrigativa, è andato un po' troppo sulla demagogia dicendo meno 315 stipendi di parlamentari, che non è che neghi che sia il punto fondamentale anche, ma non lo è per niente, perché il problema è capire nell'architettura costituzionale del nostro, nel nostro paese, poiché il Senato fino a quest'oggi siamo vissuti in un bicameralismo perfetto, dalla fiducia al governo, la doppia lettura di ogni provvedimento eccetera eccetera, quando, e io dico per fortuna, perché il bicameralismo perfetto non c'è in nessun paese al mondo, ci si mette mano, bisognerebbe avere un'idea chiara su come lo sostituisce, quale tipo di altra assemblea. Adottiamo un modello di espressione federale come in Germania, beh, allora dobbiamo scegliere però una costituzione di tipo federale. Adottiamo un senato di tipo diverso, bisogna dire che tipo di poteri dargli e qual è il meccanismo elettivo, a parte il fatto che gli si dice che i componenti non sono retribuiti. Su questo, fine dell'introduzione, ci sono idee molto varie e diverse. Sapete che il Presidente del Consiglio aveva proposto una composizione di questa assemblea per lo più espressione dei comuni. La cosa non è piaciuta molto, lui stesso ha riequilibrato tra espressione dei comuni ed espressione delle regioni. Una cosa è sicura: nel Senato, ora che comincerà l'esame della riforma elettorale anche in Senato, l'approvazione alla Camera, nel suo stesso gruppo, nel PD, ci sono senatori che la pensano in maniera molto diversa, hanno iniziato a dirlo e a depositare disegni di legge di riforma del Senato che vanno in linea totalmente diversa da questo. E allora ne parliamo oggi con un professore di diritto costituzionale e di diritto dell'informazione che insegna all'Università di Milano Bicocca, che ha scritto proprio domenica scorsa su questo argomento, su una composizione diversa dal Senato e, a dire la verità, su una composizione molto diversa, proponendo un criterio che è proprio completamente diverso da quello comuni, regioni, Stato centrale, eccetera, eccetera, perché il problema è iniziare dal dire con chiarezza ma che cosa ci deve servire questo Senato, visto che non darà la fiducia, che tipo di istanze deve garantire. Allora, è ospite con noi oggi pomeriggio il professor Giulio Nergigevani e la ringrazio di essere con noi. Grazie. Allora, qual è il criterio in base al quale domenica scorsa ha scritto sul Domenicale del Sole? Cioè, questo nuovo Senato, per come lo immagina lei e Carlo Merzi Deril, che cofirmava con lei l'articolo, a cosa deve servire? Quindi per questo, perché proponete di comporlo come ci spiega adesso? Allora, noi avevamo pensato una cosa, che tutti i progetti, compreso anche quello del governo, partivano prima dal risparmio, poi dalla composizione e infine dalle funzioni. Noi abbiamo provato a ribaltare. Allora, quale funzione? La funzione di garanzia, una sorta di funzione che oggi in parte al Presidente della Repubblica, in parte non ha nessuno, cioè fare le nomine degli organi di garanzia, e vuol dire non solo in parte la Corte Costituzionale, ma le autorità, lo stesso Consiglio d'amministrazione della RAI, che da decenni si dice deve essere sottratto alla politica. Allora, a questo punto, e anche fare un controllo sulle leggi, ma soprattutto per rinviare le leggi alle Camere qualora vi siano forti dubbi di costituzionalità, immediatamente per rinviare le leggi alla Corte Costituzionale o alle Camere, dipende se i dubbi sono di natura costituzionale o di natura politica. E quindi questo, senza aspettare poi un giudizio a quo della magistratura incidentale, aspettare o senza necessariamente aspettare il giudizio a quo, rimarrebbe, ma sarebbe un ulteriore, però un filtro preventivo, sì. Un filtro preventivo di cui tante volte si è sentita la mancanza, come in materia elettorale ad esempio. E per fare questo, da chi dovrebbe essere composto? Beh, in parte certamente da sindaci e da rappresentanti delle regioni, perché la tradizione autonomista italiana è forte, ma anche, secondo noi, da rappresentanti della scienza, della cultura, del mondo del diritto stesso. Perché? Perché qui non c'è più un problema di rappresentanza politica, questo non è un Senato che fa le leggi, ma un Senato di garanzia, e se deve garantire, ovviamente deve fare garanzia nei confronti della politica, non i politici, i rappresentanti eletti che garantiscono nei confronti di se stessi in un certo modo. Ora, detta così, in apparenza e nella sostanza di grande buonsenso. Io adesso faccio l'avvocato del diavolo e inizio a fare un po' di domande. Ma in un mondo nel quale gli accademici, gli intellettuali hanno una lunga tradizione per le egemonie politico-culturali che si sono esercitate nella storia della Repubblica, di collateralismo politico e partitico, come si fa a preservare poi il fatto che eventuali scienziati, accademici, esperti, eccetera, eccetera, non siano nient'altro che dei collaterali ai partiti della Camera? Allora, è difficile, ovviamente, dovremmo trovare un sistema adeguato. In Inghilterra ci hanno provato, hanno affidato a una commissione composta a sua volta, evidentemente secondo determinati criteri di imparzialità, di indipendenza, la scelta, e soprattutto hanno sottoposto i soggetti che poi sono nominati a degli screening, a degli esami, a delle audizioni, in modo che si valutasse effettivamente il grado di competenza e di autonomia. E l'esito non è stato male. Ovvio, importare modelli da lontano e soprattutto da un paese forse più civile nel nostro, in questo senso dell'Inghilterra, non è facile, però probabilmente anche proprio nel procedimento di scelta si può trovare la possibilità di garantire di evitare proprio il collateralismo più più scandaloso. Ora, sul procedimento di scelta di questo, chiamiamolo Senato della cultura, delle conoscenze, dei saperi, il problema, adesso le faccio una domanda, poi mi risponde dopo l'interruzione perché abbiamo per 60 secondi l'informazione stradale. Ma chi secondo voi sarebbe chiamato a nominare? Le rappresentanze stesse, che ne so, delle università, eccetera, eccetera? Ci affideremo a un modello che però sembra così un po' corporativo a questo punto? La risposta a questa domanda però tra un minuto. Ora strada. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47 prime 3 secondi da Studio Radio 24 di Milano. Stiamo parlando sullo sfondo dell'attesa della proclamazione del risultato della libera consultazione indipendentista in Veneto, trascurata dai media, secondo me sbagliando, e quindi le telefonate io ve l'ho chiesto anche per questo, però stiamo parlando di come cambiare il Senato, visto che bisogna cambiare il titolo quinto e il Premier ha detto che dobbiamo abrogarlo anche il Senato. Devo dire, gli sms che arrivano dagli ascoltatori sono a stragrande maggioranza per l'abolizione secca del Senato, cioè chi dice abolire il Senato e fare un museo a pagamento, no, di organi e garanzie ne abbiamo fin troppi, c'è ancora bisogno di altro, eliminazione totale e immediata del Senato, dice Ruggero di Padova, 4-5 messaggi, non sono molto convinti, ma questa sarà la seconda domanda che faccio al professor Giulio Nevi Giovani che è con noi, del fatto che i tecnici abbiano dato una buona prova. Però la prima domanda che era rimasta sospesa era: ma chi li dovrebbe individuare e proporre questi tecnici? No, allora, l'idea peggiore sarebbe che ogni categoria si nomina il suo, io ritorno. I universitari si nominano loro, i giornalisti loro, gli scienziati loro. Ci deve essere appunto questo soggetto. Io immaginavo appunto una sorta di gruppo, commissione ampia di persone stimate che individuano, ma non i propri rappresentanti, ma qualcosa che sia rappresentante in qualche modo della cultura del paese, perché sennò veramente diventiamo, torniamo alle corporazioncine e al camarille, che sarebbe quanto di peggio ci potrebbe essere, sarebbe una soluzione peggiore dell'attuale. E poi, giusto per gli spettatori, questo è un modello quasi monocamerale, cioè è un Senato che si riunirebbe una volta ogni tanto e non fisso, e avrebbe un ruolo completamente diverso dall'attuale, cioè non un Senato che legifera. Quindi forse in questa prospettiva c'è un po' di monocameralismo. Anzi, mi sembra molto forte il monocameralismo. Certo, completamente diverso è immaginare che invece la seconda Camera, pur non esprimendo la fiducia, a quel punto dovesse invece occuparsi della legislazione concorrente o di interventi a tutela della legislazione esclusiva, della competenza esclusiva in termini legislativi delle autonomie. A quel punto bisogna cambiarla un po' a fondo la Costituzione, se vogliamo andare verso un tipo di modello quasi federale, lei non crede, professore? No, certamente. Allora, il modello di Senato federale, il Senato delle regioni, è in crisi, anche in Germania è un po' che il modello, gli stessi tedeschi non sono per niente soddisfatti, diciamo, di questo modello, anzi in tanti casi si è discusso per cambiarlo. Certamente è coerente con uno Stato federale ed è coerente anche con quell'idea che adesso sembra prevalere di distinguere maggiormente le competenze tra Stato e Regioni. È infatti un po' il modello anche che promuovevamo, qualcosa di Senato delle autonomie, o comunque presenza dell'autonomia ce l'ha. Però secondo me davvero potrebbe essere pericolosissimo sotto alcuni aspetti, perché se legifera è una maggioranza diversa rispetto a quella della Camera, rischia di essere non un fattore di garanzia ma un fattore di intralcio. Di intralcio. Io sono dell'idea infatti che o facciamo una scelta coerente e precisa di un modello federale, o se facciamo una seconda Camera che non dà la fiducia ma che è diretta espressione solo delle autonomie, senza dire chiaramente che il modello cambia, cioè diventa veramente federale, la mia opinione è che partoriamo un pasticcio temibile, come quello, se non peggio, del titolo quinto. Però questa è la mia modestissima opinione. Sentiamo come la pensano un po' i nostri ascoltatori. Allora, cominciamo con Santo da Treviso. Prego, Santo. Sì, salve, buonasera, dottor Giannino. Non sono dottore, grazie, vado avanti. Io abito in un paesino di Loria, sono calabrese, nato in Calabria, ho 35 anni, vivo qui da 34 anni. E sono favorevole all'indipendenza del Veneto. Aia! E i suoi compaesani in Calabria non so come la prendono. Glielo posso dire perché? Perché andando giù e facendo il camionista, dove pratico molto la linea del meridione, la Campania, la Puglia e via discorrendo, ho potuto notare con i miei occhi tantissimo spreco e le persone vivono. o cercano di vivere con i sussidi dello Stato, e non è una cosa giusta, che secondo me. Santo, che devo dire, parole sante, però lei sa che questo è un tema che ha suscitato nel più dei media una grandissima reazione, perché io ho visto disprezzo, la RAI poi non se n'è proprio occupata, cosa che mi lascia senza parole, perché qui il problema, prima di giudicare, raccontiamolo, un fenomeno che dal basso porta 2 milioni di persone a fare questa scelta, però questa è la mia opinione. Sentiamo Luciano, che ci chiama da Padova, prego Luciano. Ciao a tutti gli ascoltatori, una buona giornata, e ringrazio Giannino che apprezzo comunque come giornalista. Personalmente io ho partecipato al movimento di Forconi, partecipo attualmente a diversi movimenti indipendentisti, li supporto anche economicamente, anche togliendomi il pane dalla bocca. C'è la dimostrazione che cosa sta succedendo, cosa è successo? È successo che hanno provato con l'autonomia, hanno provato con la Lega, hanno provato con i Forconi, hanno provato, e la gente si sta ammazzando. In Veneto non si vive di Stato, si vive di piccola e media industria, che se ne sta andando, che stanno chiudendo. Io ho dei clienti proprio l'altro giorno di Nicchia, un piccolo imprenditore di 8 persone, no, che fa però come Nicchia, per esempio costruisce go-kart, 125-80% di esportazione all'estero, non ce la fa a pagare i suoi dipendenti, trasferisce la sua azienda in Egitto, 15% di tassazione, no? 10% se esposta, ma come fa a rimanere qua la gente? E se va via lui, noi che viviamo di piccola e media industria, non viviamo di Stato. Io ho conosciuto diverse persone che sono ammazzate, quell'imprenditore vicino all'ospedale di Padova che gestiva il distributore, altre persone che conoscevo personalmente si sono ammazzate, non perché, ma perché quello del distributore avanzava i soldi dalla Croce Rossa. Sì. No, ma da anni io personalmente ho tentato di aprire qualche orecchio, anche pubblico, in ascolto sui temi che sta toccando Luciano, e io la penso molto come Luciano, però questa è la mia opinione personale, motivo per il quale non sottovaluto questi 2 milioni di veneti che hanno fatto questa scelta. Io non credo affatto che poi davvero vogliano la secessione domani, però il problema è che è un canale di espressione di volontà non coartato dai partiti, che non si identifica in una battaglia di una parte contro l'altra partita, a maggior ragione secondo me è interessante. Sentiamo ancora Tommaso da Venezia e poi chiudiamo con il professor Vigevani. Prego Tommaso. Buongiorno, mi chiamo Tommaso, un saluto a tutti. Ho 56 anni, sono di Mestre, provincia di Venezia. Io personalmente, al di là della mia personale opinione, che è quella di essere contrario alla secessione, però forse farei un invito a valutare un'eventuale comparazione del dato col chiedere ai cittadini, anche veneti, se amano di più le regioni e i comuni, perché io penso che le regioni di per sé non siano dal punto di vista politico molto amate, nel senso che i comuni li sentono forse più vicini ai cittadini, sì. E quindi dal punto di vista politico, per quanto riguarda dal punto di vista socio-economico, per me è del tutto evidente che le scelte sono di politica economica nazionale. Esatto, e questo penso anch'io. Io penso che le concorrenze nella competenza del titolo quinto non ci abbiano aiutato, cioè il fatto che per esempio le grandi infrastrutture energetiche di trasporto dell'energia o i rigassificatori o quelle delle telecomunicazioni siano state materia concorrente, che ciascuno a quel punto dice no, non si fa nulla, non ci abbiano aiutato. Professor Vigevani, concludiamo rapidamente. Il giudizio pesante sull'esperienza dei tecnici in questi anni che ha avuto la gente, secondo lei osta oppure la sua è una risposta esattamente a quello? Ma no, è diverso, cioè i tecnici che governano è una cosa. Perfetto. E i tecnici che non governano e fanno, il loro mestiere lo possono anche fare bene. In fondo noi abbiamo anche una classe di una società civile forse migliore rispetto a quella che viene descritta. E allora pensiamoci ancora, ne riparleremo a questo Senato delle competenze e dei saperi, al prossimo Senato pasticciato che aggiunge pasticci alle nostre istituzioni. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì.